cose che sembrano più grandi, sembrano pesanti, ma da quante verità, quante tutte qua, quante quanti che corrono felici, guarda nei prati cosa non fare. Io non voglio correre e tu non riderai, cosa non dare per stare sulla nuvola. Io non lo so cosa non tutte delle